Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Lo scorso 10 luglio all'Expo è stata inaugurata una piccola vertical farm, una versione ridotta delle grandi serre grattacielo in cui si pensa che un domani coltiveremo frutta e verdura in città. A progettarla e realizzarla è stata l'ENEA, l'Agenzia per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, che ci capita spesso di sentire e che da tempo lavora su questo tema. Ne parliamo con Gabriella Funaro, ricercatrice dell'ENEA e responsabile appunto del progetto Vertical Farm. Buonasera Funaro. Buonasera dottor Melis, buonasera ai radioascoltatori. Senta, mi dica subito come va il raccolto. Beh, il raccolto diciamo che va molto bene. Abbiamo ogni 3 settimane 250 piante di lattuga e 250 piante di basilico, che sono i nostri 2 prodotti che coltiviamo nel nostro prototipo all'Expo. E che tra l'altro poi regalate alla Caritas, se non sbaglio, visti anche un po' questi temi, no? Dell'Expo. Certo, naturalmente offriamo queste 500 piante ogni 3 settimane alla Caritas Ambrosiana a Milano, che per poi la mensa. Pensa a farne buon uso. Senta, veniamo all'oggetto in questione. È, diciamo, una vertical farm in piena regola, solo su scala ridotta. Per la verità voi eravate pronti a farne una su piena scala, ci avete anche provato, ma insomma alla fine non ne avete avuto l'opportunità. Comunque sia, ci descriva questo oggetto che si può vedere lì all'Expo. Si tratta di un piccolo edificio di 3 metri per 3 per 4 e mezzo di altezza, dove praticamente abbiamo 12 metri quadri di coltivazioni, ovvero abbiamo sui 2 lati della serra 6 ripiani cada uno, sui quali vengono appunto coltivate questi basilico e l'insalata. Naturalmente si tratta di sistemi idroponici, ovvero in assenza di suolo, sì. Le nostre piantine praticamente crescono in zolle di torba pressata e vengono dotate di per tutti i nutrimenti necessari, calibrati con precisione perché possano crescere nel migliore dei modi. Esattamente, no? Cioè il ciclo è molto semplice, praticamente all'interno della nostra serra, ovviamente un ambiente chiuso e climatizzato, quindi abbiamo un condizionatore che mantiene le temperature necessarie per la crescita di basilico ed insalata, che siamo intorno ai 17-18 gradi di giorno, un po' meno di notte. Un pochino meno di notte, esattamente, poi vengono, praticamente ci sono 2 grandi vasche, una da una parte e una dall'altra dei nostri ripiani, che contengono acqua e sostanze nutritive e diciamo in maniera programmata attraverso un computer, da queste vasche delle pompe semplicemente trasferiscono l'acqua sui bancali che vengono allagati per pochi minuti, le piante assorbono l'acqua e così via. E l'acqua ritorna esattamente nelle vasche e così il ciclo continua. Aiutano la crescita, anzi sono fondamentali per la crescita delle nostre piante, l'illuminazione a LED, cioè queste lampade che riproducono esattamente il ciclo della fotosintesi clorofiliana con la luce fredda. Ok, con delle tonalità di colore ottimizzate. Adesso non entriamo nei dettagli. Senta, ma perché, si domanderanno i miei ascoltatori, c'è bisogno di andare in un palazzo in città per coltivare dell'insalata? Quali sono i vantaggi di questo tipo di coltivazione? Il tempo stringe. Allora, il vantaggio essenziale è che noi possiamo coltivare molto di più rispetto al campo a campo aperto, 3-4 volte in più rispetto alle serre, 7-8 volte in più rispetto al terreno. Come produttività proprio. Come produttività, in più riusciamo ad andare su piani sovrapposti, quindi più alti andiamo, più guadagneremo in termini di terreno, il quale si abbatte completamente, non abbiamo uso di suolo. Consumo di suolo quasi zero. Esattamente, consumo di acqua è anche questo bassissimo, 2 litri di acqua ogni chilo di lattuga rispetto ai 45 litri ogni chilo di lattuga in colture tradizionali. Quindi il 5% di quello originale, su per giù, di consumo di acqua molto basso. E risparmi ovviamente 40-50% di concime rispetto alle colture tradizionali. La CO2 è tutta riciclata perché viene riassorbita dalle piante, anche questo ovviamente. E poi l'altro importante vantaggio è il fatto che è a chilometro zero. Poi è importantissimo il fatto che noi non usiamo pesticidi contro i parassiti, perché è un sistema completamente chiuso. Anche questo è un grosso risparmio. Quindi abbiamo, dicevamo, del cibo completamente bio. Senta, l'unico punto debole di questo sistema è il consumo di energia elettrica dovuto all'illuminazione. Ci ha spiegato che voi illuminate queste piante con dei LED. Non si poteva usare la luce naturale? Assolutamente questo tipo di coltivazioni su più strati sovrapposti non è assolutamente possibile usare la luce naturale, perché non arriverebbe in modo uniforme su tutti i piani della nostra serra verticale. Quindi la luce artificiale è fondamentale. È fondamentale, poi voi la usate anche per prolungare le ore di sole, tra virgolette, artificialmente, no? Rispetto certo. a quelle naturali, insomma. Certamente lo utilizziamo praticamente 18 ore sulle 24 della giornata, soltanto le 6 ore notturne rimane spenta, e quindi questo per consentire alla pianta di avere una continuità di crescita. Va bene, grazie Gabriella Funaro. Grazie a tutti voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.